fatto un tweet che io sto comprando per tempo, mi sembra che abbia fatto molto bene a fare quel post, perché siccome lui c'era, è andato dentro, non ha commesso nessun reato, è un servitore dello Stato, era lì per garantire la sicurezza, non è stato condannato, per cui voglio dire, non riesco a capire qual è lo stupore. È un servitore dello Stato che dice lo rifarei perché quello è il mio dovere. Passare grossi guai con sicurezza di chissà che non verrà mai punito. Quando vedete un diverso da voi, puntate subito il dito e poi diventerete eroi. Riceverete una promozione, riceverete medaglie, complimenti da tutte le persone. Intenderete rispetto e tanti ringraziamenti, vi sentirete sempre più importanti, sempre. La vostra carriera è costruita sulla paura, la vostra carriera è costruita sulla tortura. Siete macchine programmate a non pensare, siete macchine con l'ordine di picchiare. Non vi rendete conto che siete schiavi del potere che vi usa, eseguite ordini e non sentite mai nessuna scusa. Quella foto che ha fatto vedere la madre, una foto terribile. È ma la macchia rossa che dietro è un cuscino. Un cuscino. Un cuscino. Da una festa puoi trovare dei tipi in divisa che ti spaccano la testa, i colleghi faranno sciopero quando li dovranno processare, il ragazzo che si è buttato contro un manganello perché si voleva ammazzare. Quella foto che ha fatto vedere la madre, una foto terribile. È ma la macchia rossa che è dietro è un cuscino. Un cuscino. Non è stato massacrato. E voi l'avete detto la sentenza. Ma la foto che ha fatto vedere la madre. Io sono andato. Quella foto che ha fatto vedere la madre, una foto per. È falsa. Un cuscino. Un cuscino. All right.